Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche dei referendum perché hanno un impatto, tre su quattro hanno un impatto chiaramente anche economico, non solo quello sul nucleare ma anche quello sull'acqua. Dico subito che guadagnano Enel Green Power più 1,83%, ma è arrivata a guadagnare quasi il 3% per via della bocciatura all'ipotesi di utilizzare il nucleare in Italia, bocciatura che insomma, da quello che vediamo i dati sono ancora parziali ma quasi definitivi, 94% di sì a bocciare la proposta del governo, 6% di no, e guadagna però anche A2A l'1,80%, anche qui il referendum pesa, guadagnano anche i titoli legati al settore acqua, visto che la bocciatura è stata netta anche in quel caso. E poi avremo un aggiornamento verso le 17.40 con i dati a questo punto finali di questi referendum, vista la velocità dello scrutinio. Dicevo, la borsa complessivamente è negativa di uno 0,24%, invariata Parigi, più 0,20 Francoforte, più 0,20 Londra e più 0,15 l'America. Perché Milano è negativa? Beh, soprattutto per Fondiaria Assai, meno 2,41%, e anche per TOZ meno 2,86%. Pesano comunque Azimut meno 2,40%, Ansaldo STS meno 1,40%, Tenaris meno 1,30%, Mediolanum meno 1,20%, Fiat meno 1,1%, Diasori meno 1,1%. In apertura l'assemblea dell'Asso Lombarda oggi, che è la più importante associazione territoriale di Confindustria, dell'industria appunto della prima regione economica del paese, in cui Emma Marcegaglia è tornata a chiedere tagli non lineari, non orizzontali ma mirati, di nuovo il tema dei contratti, e il tema dei contratti sarà anche il nostro approfondimento alle 18.10. Perché? Perché da Santa Margherita Ligure il ministro Tremonti ha detto in sostanza: va bene, ragioniamo su una riforma fiscale, però anche gli industriali e le imprese, non tanto su quelle manifatturiere, quelle dei servizi soprattutto, utilizzino meno i contratti a tempo determinato, le forme diciamo che vengono chiamate da alcuni di precariato, se ne è abusato, e quindi facciamo uno scambio per cui da un lato cerchiamo di innovare sul fronte fiscale e anche sul fronte contrattuale, dando maggiore forza al contratto aziendale, però se si usa il contratto aziendale che vengono fatti più contratti di assunzione vera e propria e non di lavoro a tempo, anche perché i dati, e qui sentiremo anche la voce del possibile successore di Mario Draghi alla Banca d'Italia, mi riferisco a Saccomanni, che in uno studio della Banca d'Italia ha fatto notare come sia aumentato contro ogni livello precedente il numero di contratti a tempo, di contratti interinali rispetto ai contratti a tempo determinato. Il tema chiaramente sono i giovani, l'accusa è che si sta scaricando sulla parte più debole del mercato del lavoro, cioè chi è appena entrato, chi è poco formato, chi è giovane, chi ha bisogno di lavorare, chi è più flessibile, tutta il recupero di produttività. E quindi abbiamo due paesi, non solo nord-sud, ma anche due paesi tra chi è assunto e chi invece ha diritti e quant'altro, e chi invece fa parte della cosiddetta generazione 1000 euro, che alcuni chiamano generazione perduta, quella dei trentenni, più o meno 28-30 anni. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms, e rapidamente le altre notizie in breve. Avete ragione, avete che elenchi tutte le società coinvolte, Kerself nel referendum più 14,5%, KR Energy SPA più 11,40%, e ancora su questo anche la Beghelli guadagna il 7,80%, poi c'è Terni Energia che fa il 3,5%. Acque potabili invece, l'ex acque potabile di Torino perde il 6,20%, è chiaro che l'ingresso nel capitale poteva eccitare la borsa. Il titolo più in vista in questo momento sul fronte acque, appunto, acque potabili. Ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Petrolio in calo 98,7 dollari al barile, e ancora, per quello che riguarda invece i dati dell'economia internazionale, deludono gli ordinativi industriali in Giappone, e tra l'altro gli ordinativi per macchinari sono calati del 3,3% su base mensile ad aprile, contro attese di un leggero rimbalzo dopo il dato drammatico chiaramente di marzo. L'11 marzo ci fu infatti il sisma e lo tsunami in Giappone. Però continua a calare anche la produzione elettrica, che è uno dei principali indicatori dell'attività produttiva di un paese. Più energia si consuma, più il paese sta lavorando, diciamola così. Meno 5% quasi la produzione elettrica in Giappone a maggio. L'utilizzo degli impianti nucleari crolla al 40,9%, ai minimi da 32 anni. E poi, visto che il nucleare è tema anche di oggi, praticamente la prefettura di Fukui, il governatore della prefettura di Fukui, Issei Nishikawa, ha annunciato che non darà l'autorizzazione a far riprendere i reattori, perché se il governo centrale non chiarirà le ragioni che hanno causato la recente chiusura della Hamaoka e lo stato degli altri impianti del paese. Praticamente in questa area a sud di Tokyo ci sono 14 reattori nucleari su una superficie che è quella della città di Roma, ed è, diciamo, il cuore dell'energia nucleare giapponese. Vediamo l'Europa. Continuano a aumentare le differenze tra quanto rendono le obbligazioni tedesche, i bot tedeschi, e quelli invece portoghesi e irlandesi. Lo ripetiamo ogni volta: più rende un titolo di Stato, più a rischio è quel paese, perché vuol dire che devi offrire di più per trovare dei compratori del tuo debito. Allora, lo spread è salito al 10%, 10,7% con Lisbona, cioè rendono il 10%, praticamente i titoli di Lisbona rendono il 10,7%, lo spread, la differenza con quei tedeschi, è ormai al 7,75%. Le obbligazioni irlandesi rendono l'11,5%, la differenza con quelle tedesche è ormai dell'8,4%. E il franco svizzero vola a 1,203 nei confronti dell'euro, nuovo record del franco svizzero. L'euro sul dollaro invece è stabilmente a quota 1,4370. Buona notizia per l'Italia, dove la produzione industriale ad aprile è salita più delle previsioni, più 3,7% rispetto a un anno prima, ad aprile, e più 1% rispetto a marzo, è il terzo rialzo consecutivo. E questo nonostante la produzione di autoveicoli ad aprile abbia fatto un meno 13%, di questo parleremo a breve. Il centro studi Confindustria si attende un nuovo stop alla produzione nel mese di maggio. E poi alcuni commenti, adesso arriviamo a quelli raccolti nel corso dell'Asso Lombardo, dell'Assemblea degli Industriali Lombardi. Però oggi il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, a margine dell'Assemblea Annuale degli Industriali di Napoli, ha detto: l'Italia ha superato la crisi finanziaria senza cadere nel baratro della Grecia, ma questo non basta, o riprendiamo il cammino della crescita o i problemi ci ricadranno addosso. Due notizie in breve, poi andiamo al tema di apertura. La Timberland ha raggiunto un accordo per la cessione del gruppo Timberland a WF Corporation, che è un'azienda di abbigliamento statunitense. 2 miliardi di dollari pagherà e il titolo Timberland guadagna il 51% alla borsa. Invece, per quello che riguarda la Fiat, per il 2011 ha confermato l'obiettivo di un utile netto a 300 milioni di euro. Lo ha confermato oggi illustrando il piano e i conti agli analisti a Londra. Con Chrysler l'obiettivo è produrre 6 milioni di auto Fiat e Chrysler entro il 2014. In Cina l'obiettivo, sempre entro il 2014, è arrivare a vendere 300.000 vetture. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, per quello che riguarda i giovani e i contratti che vengono fatti ai giovani, un po' di pazienza, ne parliamo alle 18.10. Il tema c'è tutto e lo ha sollevato sia il ministro Monti che la Banca d'Italia. Quindi su questo non ci sono dubbi. Invito solo a distinguere tra imprese manifatturiere, cioè industrie che producono beni, e invece imprese dei servizi, perché da quello che vediamo i contratti, diciamo, più precari si concentrano soprattutto nell'industria dei servizi, nelle società piccole dei servizi. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms. Primo tema, gli industriali oggi riuniti a Milano per l'assemblea della Lombarda. È intervenuto il ministro Sacconi, è intervenuta la presidente di Confindustria Marcegaglia, ma soprattutto, come dato anche politico, oltre che economico, prima volta, prima uscita del neosindaco Pisapia. Mentre sul fronte dei contratti arriva adesso un'agenzia che dice che il segretario della UIL, Luigi Angeletti, ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e a tutte le parti sociali la preannunciata lettera in cui viene disdetto il protocollo dei contratti del 93. La UIL infatti vuole andare oltre i contratti del 93, la CGIL contraria, la CISL ha una posizione mediana, ma comunque insomma di apertura. Allora, dicevamo, prima volta nel neosindaco di Milano Pisapia, con tutto il portato politico che ha avuto il suo ingresso oggi nella sala dell'auditorium dove si teneva l'assemblea dell'Asso Lombarda, gremita, centinaia di persone, tutti gli esponenti della finanza e dell'imprenditoria milanese e lombarda, accolto con un, devo dire, molto forte e caloroso, si direbbe in questi casi, applauso. Domani su molti giornali vi sarà una lettura anche su questo. È innegabile che è stato molto applaudito Pisapia dagli industriali milanesi e lombardi. Questo è il suo patto proposto con le imprese di Milano. Un patto tra il governo di Milano e tutti gli attori della società, le imprese, le università, le associazioni, tutte le altre istituzioni. Un'alleanza per lo sviluppo civile ed economico della nostra città. Il dialogo con il mondo associativo è una e sarà una delle mie priorità. Asso Lombarda è un'organizzazione associativa che opera in un contesto territoriale fatto di quasi 150.000 imprese, che assicurano oltre 5 milioni di posti di lavoro. L'organizzazione di un governo municipale non solo non può prescindere dal rispetto di questa realtà, ma deve anzi valorizzarla e farne un interlocutore costante e privilegiato. E poi i temi. Allora, andiamo con ordine, perché nel fine settimana è successo un po' di tutto, sia Santa Margherita Ligure, ma poi Levico Terme, dove ha parlato il ministro Tremonti, dove ha parlato il ministro Maroni, e poi è arrivato il giorno dopo Tremonti. Ripercorriamo la vicenda. Allora, due giorni fa, da Levico Terme, la famosa frase del ministro Maroni sulla riforma fiscale e però sull'esigenza di mantenere in sicurezza i conti pubblici, la famosa frase: meglio coraggio che la prudenza dalle volte. Sentiamo Maroni. Ha detto che serve la prudenza, è giusto, però in questi momenti io credo che serva più il coraggio della prudenza, o tutte e due, insomma. La prudenza sì, ma anche il coraggio di guardare e di mettere in campo una riforma significativa. A stretto giro la riforma, la risposta, scusatemi, del ministro Tremonti il giorno dopo, cioè ieri, sempre alla Vico Terme, dove c'era la festa nazionale della CISL. Ci sono cose per cui dimostri hai più coraggio se le dici che non se le taci o fai finta che non ci sono. Un qualche coraggio, avendo il terzo o quarto debito pubblico del mondo, ma senza avere la terza economia o la quarta economia del mondo, un qualche coraggio in questi 3 anni, e credo che tutto insieme, non me escluso, il governo lo abbia dimostrato. Io le idee anche per le coperture ce l'ho. Allora, alcune sono certamente sui costi delle politiche. Io non la vedo tanto come modo per tirare sui soldi, perché per quanto siano molto forti, tuttavia i grandi numeri non li fai segando, ma ti legittima nel chiedere il sacrificio alla gente. Mi sembra inappuntabile questo passaggio di Tremonti, che dice: i tagli ai costi della politica non sono fatti, abbiamo intere schede su questo, se volete un giorno leggiamo su quanto costa il Quirinale, quanto costano le Camere italiane, quanto percepisce un deputato italiano, un senatore rispetto agli altri, ma insomma i tagli non li fai perché con così sistemi i conti pubblici, ma lo fai perché poi puoi anche chiedere tagli agli altri e al paese, puoi chiedere uno sforzo al paese. Se la cinghia non la tirano prima i politici, è difficile che poi tu questo lo possa chiedere al paese come sacrificio. E oggi il ministro Maroni ha replicato: Tremonti è il miglior ministro dell'economia che ci possa essere in questo momento, ha le idee chiare, spero che riesca a trovare le coperture adeguate e che il Presidente del Consiglio il 22 giugno venga in Parlamento a dire che il colpo di frusta c'è. Quindi la schermaglia, la querela si è già conclusa oggi, la dice lunga però sulle tensioni che crea, e qui la politica entra in questo programma perché la riforma fiscale è un accordo politico. Entra decisamente perché insomma le tensioni sono tensioni interne alla maggioranza. Comunque è Marcegaglia oggi all'Assemblea degli imprenditori lombardi, ha elogiato di nuovo il ministro Tremonti, è un ministro che ragiona seriamente. Ho ascoltato sabato il ministro Tremonti, ho anche parlato con lui prima che lui parlasse pubblicamente. La mia impressione, magari mi sbaglierò, che il ministro Tremonti sta ragionando seriamente su questa cosa. Quindi spesso, come dire, arrivano poi al pubblico o ai media percezioni che sono forse diverse da quelle che almeno io ho colto. Quindi io mi auguro che invece si vada in questa direzione. Confindustria, come ha sempre fatto, è pronta a ragionare, a dare una serie di progetti, di riflessioni. Però questo tema della riforma fiscale va fatta. Il ministro Sacconi ha detto che serve più coraggio per aggredire la spesa pubblica, però lasciatemi fare un breve inciso. Il coraggio, voglio dire, lo dice a se stesso Sacconi, è quello del governo, cioè il coraggio deve averlo chi sta governando. Allora, aggredisse il governo con una riforma anche la spesa pubblica, là dove è improduttiva, là dove serve alle consulenze, alle clientele, non quella produttiva, non gli incentivi, non gli sgravi, non la parte che va a vantaggio dei consumi interni. Ha detto Sacconi a margine dell'Assemblea di Assolombarda: faremo la manovra e la riforma fiscale, non sarà né facile né indolore, sarà importante regolare la spesa sanitaria ed è auspicabile un'intesa tra le parti. E poi il tema dei contratti, ripeto, sarà un tema anche nella seconda ora del programma, però è a cavallo perché si cerca di, attraverso i contratti, avere maggiore flessibilità aziendale. Sto chiesto, ripeto, dal ministro Tremonti, anche se vogliamo dalla Banca d'Italia, però vengono fatte più assunzioni a tempo indeterminato, se ci deve essere una logica di contratti più legata sull'azienda e non sul contratto nazionale. Marcegaglia ha ricordato questa mattina che invierà una lettera ai sindacati per un incontro da tenere questa settimana o all'inizio della prossima. Ancora non sapeva dell'ufficializzazione della disdetta da parte della UIL dei protocolli del 93. Comunque sentiamo la Presidente di Confindustria. Io credo oggi stesso inviterò con una lettera formalmente i sindacati a parlare con noi nei prossimi giorni, già questa settimana o al più tardi a inizio della prossima, di questo tema che è un tema molto importante. Oltre alla spinta verso il contratto aziendale, oggi noi dobbiamo avere l'esigibilità dei contratti aziendali, cioè dobbiamo metterci d'accordo attraverso un accordo interconfederale tra di noi, tra parti sociali, che dice che se un'azienda fa un accordo con chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori, siano essi rappresentati dall'RSU o dall'RSA, questo accordo deve valere per tutti. Non ci può essere poi qualcuno che il giorno dopo si alza, rimette in discussione quanto è stato deciso, magari appunto con strumenti che non vanno nella direzione di aumentare la produttività e la forza e la competitività delle imprese. Quindi su questo tema noi lavoreremo già nei prossimi giorni. Io sono fiduciosa che anche chi magari fino ad oggi non ha condiviso con noi alcune cose si renda conto che questo discorso dell'esigibilità dei contratti, questa conclusione di questo tema che ci vede, come dire, verso una contrattazione che dal nostro punto di vista deve comunque vedere un ruolo del contratto nazionale. Noi non siamo per la sparizione dei contratti nazionali, ma che porti sempre più verso i contratti aziendali attraverso anche un meccanismo di esigibilità, sia la scelta giusta per i lavoratori, per poter aumentare i salari dei lavoratori, e per le imprese, per aumentare la propria produttività e la propria competitività. Allora, poi il commento anche di Corrado Passero, numero 1 di Intesa San Paolo, che ha detto è giusto tagliare le tasse, è un giusto intendimento, siamo ancora a un livello di crescita del tutto insufficiente per creare lavoro, che è la priorità numero 1. Insomma, le banche, gli industriali e mi sembra anche il governo sono tutti d'accordo sul tema, bisogna trovare poi il modo, il decreto attuativo per farlo. Volete sapere del referendum? Abbiamo previsto una finestra, un aggiornamento apposito dopo il metodo e la pubblicità, perché a questo punto i dati sono già ampiamente certi, ma dovrebbero essere quasi totalmente definitivi. Ci risentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Prima di arrivare alla borsa cerchiamo anche di capire quale sia l'esito ormai definitivo del referendum. Una nota che scrive: non dica più mettere le mani nelle tasche degli italiani. Io non l'ho mai detto, lo dicono i politici, non è un'espressione che uso. E allora Simone Spezia è accanto a me, siamo praticamente al totale, definitivo quasi, o forse mancherà sì. Una o due? No, allora in realtà dal punto di vista dello scrutinio mancano parecchie sezioni, siamo al definitivo, questo sì. Sull'affluenza. Sì, naturalmente, ed è il 57,1% per quanto riguarda tutte le sezioni, in sostanza tutti i quesiti soprattutto. Naturalmente, come era prevedibile, in questo caso chi è andato a votare ha votato sì, e quindi la maggioranza che ne sta emergendo per il sì è una maggioranza schiacciante, sopra il 95%, ricordiamolo, ecco. Sì, sopra il 95% per la privatizzazione della gestione dell'acqua e dei servizi pubblici, di alcuni servizi pubblici locali, del 95,9% per i profitti sull'acqua, del 94,4% sul nucleare e del 95% sul legittimo impedimento. Poi naturalmente a margine di tutto ciò, e nemmeno troppo a margine, in realtà ci sono tutte le prese di posizione politiche, a partire da quella del Partito Democratico, che chiede le immediate dimissioni del governo, se vadano da Napolitano, dice Bersani, e presentino le dimissioni, ma soprattutto quella della Lega, perché dopo le parole del ministro dell'Interno Roberto Maroni in una intervista questa mattina, nella quale diceva il 22 giugno, momento della verifica di governo, sarà un momento decisivo, arrivano anche quelle del ministro per la semplificazione Roberto Calderoli, che stringendo dice in sostanza: siamo stufi di prendere sberle, a questo punto andremo a vedere appunto il 22 che cosa succederà in Parlamento, se Berlusconi si presenterà rispondendo a quelle che sono le nostre richieste, a partire dagli interventi dal lato del fisco naturalmente, e da quel punto di vista poi da quel momento poi ci muoveremo. Nel frattempo lo Stato Maggiore della Lega è riunito nella sede di Via Bellerio, è presumibile che nelle prossime ore, se non nei prossimi minuti, uscirà una presa di posizione ufficiale e complessiva da parte di tutto il partito. Nel frattempo arrivano altre reazioni anche dagli altri attori politici. L'Italia dei Valori in realtà non chiede le dimissioni di Silvio Berlusconi, mentre il leader dell'Unione di Centro, Pier Ferdinando Casini, dice che il dato di oggi è addirittura più clamoroso di quello delle amministrative, e soprattutto per la Lega. La Lega, dice, per salvare il suo insediamento politico deve svincolarsi. Un appello alla Lega, in realtà una sorta di appello alla Lega, è arrivato anche dal leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Anche da lui arriva un appello a svincolarsi dal centrodestra, a svincolarsi, o meglio, a svincolarsi da Berlusconi e dal PDL, arrivano anche dichiarazioni più morbide dal lato leghista. Ne prendiamo una adesso, è quella del presidente del Veneto, Luca Zaia. Dice che il referendum ha certificato la trasversalità di temi come l'acqua e il nucleare, che sono trasversali proprio perché hanno, così dice Zaia, una componente etica. E col centro-sinistra che canta vittoria, Zaia dice questo fa parte del gioco delle parti. Sì, Zaia che tra l'altro aveva detto che avrebbe votato sì sia al referendum sull'acqua che sul nucleare, quindi già creando diverse posizioni dentro la Lega. Bossi aveva annunciato che non sarebbe andato a votare, ma insomma i governatori sul territorio hanno avuto posizioni molto molto diverse. Siamo anche in grado, Simone, di dare le percentuali sui referendum, anche se per i vari quesiti si tratta di percentuali ancora provvisorie. Devo dire che con i seggi scrutinati siamo ormai a un margine molto risibile, fermo restando che hanno vinto i sì, perché tanto si sapeva che se si fosse raggiunto il quorum, lo ripeto anche chi ci scrive, avrebbero vinto i sì. B, che ormai non c'è più margine per cambiare molto il dato. Comunque, i quattro referendum nazionali, le percentuali sì, no? Sì, come si diceva, 95,4% sull'acqua e sui servizi pubblici locali per il sì, 95,9% quello che viene definito sui profitti sull'acqua sostanzialmente. Certo. L'energia nucleare 94,4% di sì e 95% per il legittimo impedimento. Da notare dal lato del quorum anche un altro aspetto. Come abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio e non solo, c'era il problema delle 3 milioni di schede degli italiani all'estero. Che cosa è successo? È successo che Corte di Cassazione, quando il governo ha cambiato di fatto la legge sul nucleare col decreto omnibus, la Cassazione ha deciso di virare il referendum sullo stesso decreto omnibus, e quindi cambiando il quesito, se non nella sostanza comunque nella forma, mentre invece i 3 milioni di italiani all'estero avevano già ricevuto le schede, avevano già iniziato a votare sul quesito precedente, e quindi c'erano molti dubbi sulla validità o meno di queste schede e soprattutto molti dubbi sulla validità del voto degli italiani all'estero ai fini del quorum. Ebbene, la soglia per oltrepassare questo ostacolo era di poco più del 53%. Visto che il quorum è oltre il 57%, anche questo scoglio naturalmente del voto degli italiani all'estero è superato. Allora, lo dico a chi scrive, adesso passiamo dopo il traffico ai mercati e alle reazioni anche della borsa su molti titoli coinvolti in questi referendum, penso quelli del nucleare ma anche a quelli dell'acqua. Dico una cosa, è inutile continuare a scrivere messaggi, insomma, uno poteva votare o sì o no, massimo rispetto. Noi nel caso dell'acqua abbiamo avuto due ospiti a favore, due ospiti contrari, cioè due sì al referendum e due no al referendum. Nel caso del nucleare abbiamo avuto ospiti contrari e ospiti a favore, per cui si rispettano anche le decisioni. È inutile dire adesso la mafia brinda, non si capisce perché dovrebbe brindare la mafia per il fotovoltaico al sud. Prendiamo atto e rispettiamo quella che è la decisione popolare, perché un dato così netto forse era quasi inimmaginabile: 57% dell'affluenza, e resta sconfessato chi si immaginava un quorum non raggiunto al 48-49%, per poi vedere un 95-97% sull'acqua, oltre che sul nucleare, dove era più immaginabile per via di anche dell'impatto emotivo di Fukushima. Il dato è netto, è incontrovertibile, basta, capitolo chiuso. I referendum esistono anche per essere accettati, non per continuare a polemizzare al 349-238-6666. Grazie Simone Spezia, altri aggiornamenti nel corso del GR, e poi se ce la facciamo anche alle 18.25, adesso il traffico e poi la borsa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora veniamo anche alla borsa. Borsa in parte influenzata dai referendum. A2A, quindi gruppo energetico che unisce le municipalizzate Milano-Brescia, più 1,6%. Enel Green Power, che quindi valorizza la parte green, la parte rinnovabile del gruppo Enel, più 1,41%. E Enel invece sul fronte è in qualche modo anche sul sul versante opposto. Perché lo dico? Perché Enel era molto impegnata nel progetto nucleare, quello annunciato dal governo, con i rapporti con la Francia, perde lo 0,13%. Devo dire Eni meno 0,44%, Banco Popolare più 1,26%, Autogrill più 0,90%, Luxottica più 0,80%, Terna più 0,50% come Campari. Da segnalare che titoli legati all'energia come KR Energy guadagnano il 15,6%, Kerselfi il 14%, Beghelli il 6,22%. Invece Acque Potabili, ex Acqua Potabile di Torino, ha perso il 6,06%. Oggi il commento lo facciamo con un gestore, anche per giudicare questi temi, e non con i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, Angelo Drusiani, responsabile gestioni per Banca Bertini Sayoz. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto un commento sui titoli, quindi effetto referendum sui titoli, poi veniamo invece anche a alcuni andamenti degli spread oggi sulle obbligazioni portoghesi e irlandesi un po' preoccupanti. Cosa premia la borsa dopo l'esito del referendum? Io credo che tra i grandi titoli a maggior diffusione sicuramente era il Green Power, quello che ha ottenuto il mio risultato. Bisogna tenere conto anche che già con la decisione della Germania di qualche giorno fa di eliminare tutte le centrali nucleari nell'arco dei prossimi anni, Eni Green Power, che aveva staccato il dividendo, quindi era sceso di presto, era tornato su valori non ai massimi, però verso valori abbastanza alti, proprio perché c'è questa attesa a livello europeo di un cambiamento, non dico radicale, però abbastanza simile per quanto riguarda il sistema di produrre e vendere energia. Il dato è inequivocabile. È vero che si era mossa bene anche nel Green Power dopo la decisione tedesca sul referendum. Devo dire che oggi però le altre borse europee, Francoforte più 0,20, Londra più 0,20, Parigi invariata, Milano è l'unica che perde, seppur poco, seppur lo 0,18%. Bene anche Ergi Capital, vi do anche il dato degli altri titoli coinvolti dal referendum: Ergi Capital più 14,24%, e poi anche bene Pramac, che eccola qua, più 11,9%. Tutti i titoli legati alle rinnovabili sono saliti tantissimo, insomma, perché ormai il capitolo nucleare è chiuso definitivamente, ne parliamo quando, non so se mai, ma la pietra sta messa sopra. Sul fronte invece di chi perde di più, le utility, dottor Drusiani, in cui magari si sperava che entrasse il privato, parlo dell'acqua. Sì, ecco, sì. Perché Acqua Potabile perde il 6%, prego. Sicuramente questo è un aspetto che ha preoccupato, perché le aziende erano quasi convinte che il referendum non sarebbe passato, peraltro era una considerazione unanime, però difficilmente si pensava che avrebbe raggiunto il quorum, quindi è chiaro che è una delusione per queste aziende, perché devono rivedere il loro budget, le loro previsioni di crescita, soprattutto quelli che sono gli investimenti che devono effettuare per sviluppare la propria attività, quindi sicuramente sono dei contraccolpi negativi. Io credo però che al di là di questo le borse, lei giusto poco fa faceva riferimento agli andamenti di stili non brillanti ovunque, credo che siano ancora molto preoccupate per questo pendolo della Grecia: un giorno la salviamo, un giorno la salviamo. E veniamo a questo tema, usciamo un attimo dall'Italia, anche perché abbiamo dedicato all'Italia tutta l'apertura. Allora, oggi il Sirtaki finanziario greco prevede, recita nel menù, di nuovo dichiarazioni sul salvataggio. Adesso anche i tedeschi si sono accorti che conviene salvare la Grecia, hanno 30 miliardi le banche tedesche, 50 miliardi le banche francesi di esposizione verso la Grecia, e se ne sono accorti. Dicevo, per di più oggi è intervenuto anche Jean-Claude Trichet, ha detto ogni ipotesi di ristrutturare il debito greco deve basarsi su un contributo volontario da parte dei creditori di Atene, ossia le banche private, se vogliono, possono, e anzi sono invitate, ma solo volontariamente, a rinegoziare i propri crediti con la Grecia, allungare le scadenze, quindi abbassare i rendimenti. A me è preoccupato di più, Drusiani, vedere di nuovo a record la differenza tra quanto rende l'obbligazione tedesca, quella più sicura di tutte, e le obbligazioni portoghesi e irlandesi. Siamo a 7% di differenza con il Portogallo e l'8% con l'Irlanda, che vuol dire che un titolo di Stato portoghese rende il 10,70% e quello irlandese l'11,5%. Prego. Vedi, i problemi che hanno questi tre paesi, quindi Grecia, Portogallo, Irlanda e in parte anche Spagna, anche se al momento è un po' edulcorato, quindi non si nota, è la scarsa propensione all'industria. Sono paesi in cui l'industria non è che sia sviluppatissima. Viceversa, l'Italia, per quanto siano aziende medio-piccole, però c'è un tessuto industriale molto importante in Italia, quindi è evidente che nei paesi in cui l'industria è modesta, di conseguenza di fronte a una eventuale ripresa dell'economia, l'aggancio sarebbe molto molto modesto, di conseguenza non in grado di ridurre il rapporto tra deficit e PIL, ed è questo che preoccupa per questi paesi qua. Non a caso, se lei guarda, giustamente come lei faceva riferimento poco fa, al di là della Grecia che ha un differenziale molto più elevato, sia il Portogallo sia l'Irlanda tendenzialmente il differenziale dei due paesi sta tendenzialmente crescendo e si è portato a livelli molto molto alti. Quindi la Grecia ormai, se volesse mettere un bot, dovrebbe offrire il 24% a due anni, una cosa impensabile. Ma il livello del 10% portoghese e dell'11% irlandese è già un livello, diciamo, da rischio o fino a quando? Sì, in una fase come questa in cui, se lei pensa che il decennale tedesco paga meno del 3% addirittura... Lordo? Cioè il BTP a 10 anni tedesco paga il 3%... Esattamente. Meno del 3% lordo, sì. Consideri che un 10% è già sicuramente un investimento, cioè prevede che l'investimento possa... Sotto gli investimenti ci possono essere dei rischi abbastanza importanti. Mm-hmm. È evidente che sono dei rischi importanti al di là del rapporto deficit-PIL che è elevatissimo, al di là del fatto, dicevo prima, della mancanza di industria. Il problema che si pongono gli investitori è che questi paesi difficilmente saranno in grado in tempi brevi di far rientrare il rapporto deficit-PIL, e questo è un aspetto che preoccupa non poco. Ma lei, per concludere, si attende questi spread, cioè quindi i rendimenti irlandesi e portoghesi in continuo aumento? Io temo proprio di sì, difatti quando mi chiedono ma a questi livelli vale la pena comprare sia Grecia, io rispondo di no, perché temo che fino a che non si arriverà a livello europeo a decidere che in effetti si aiuteranno questi paesi a uscire dalla crisi o a tentare di uscire dalla crisi, la speculazione avrà gioco facile a buttare giù i prezzi come e quando vorrà, come ha fatto peraltro in questi giorni. Grazie Angelo Drusiani, responsabile di gestione di banca Bertini. Adesso c'è il GR, mi chiedete perché non ho commentato il quarto referendum, quello sul legittimo impedimento, perché nulla c'entrava con l'economia, dopodiché il giudizio è stracchiaro anche lì, il 96% l'ha abrogato, basta. Adesso c'è il GR, poi parliamo invece del mercato del lavoro che preoccupa non solo la Banca d'Italia, non solo i giovani, ma anche il ministro Tremonti. 349-238-6666 per gli sms dopo il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo avere raccontato quello che è successo oggi all'Assemblea degli Industriali Milanesi, Lombardi, Lasso Lombarda, l'applauso per Pisapia, ripeto, è solo una nota di carattere politico, abbiamo fatto anche ascoltare la proposta di Pisapia. Dopo aver raccontato la reazione di Borsa all'esito del referendum, molto bene i titoli legati alle fonti rinnovabili, e mi riferiscono non solo a Enel Green Power ma in generale a tutti i titoli che hanno avuto i migliori risultati oggi, li ripetiamo visto che ce lo chiedete: KR Energy più 15,6%, RG Capital più 14,24%, Kersef più 14%, Pramac più 11,90%, Beghelli più 6,22%, male i titoli legati all'acqua, dove invece il mercato sperava un ingresso dei privati, e Acque Potabili perde il 6%. Chiuso questo capitolo, ci occupiamo adesso di un tema che è emerso con forza sabato scorso all'assemblea, al convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria Santa Margherita Ligure. È emerso con forza perché ne hanno parlato sia il ministro Tremonti che il direttore della Banca d'Italia Saccomanni, Fabrizio Saccomanni, considerato, oltre che direttore generale della Banca d'Italia, uno dei più possibili, papabili pretendenti al ruolo di governatore, che sarà lasciato libero da Mario Draghi. I giovani, la disoccupazione, i giovani e i contratti. 349-238-6666 per i vostri sms. La formula del ministro Tremonti, al di là delle tasse, riforma fiscale, di fronte agli industriali è stata questa: diamo più spazio e più forza agli accordi aziendali, quindi non a quello nazionale ma all'accordo della singola azienda, però vengano fatti più contratti a tempo determinato e meno contratti a termine, meno abusi di contratti a termine. I dati sono infatti, quanto a disoccupazione, drammatici, soprattutto per i giovani in questo paese. Allora, pensate che prendendo 100 giovani con un contratto atipico, dopo un anno, praticamente 53, anzi nel 2010 60 sono rimasti ancora precari, e poi 20 sono rimasti disoccupati. Quelli che sono stati impiegati quasi stabilmente o stabilmente sono il 20% dopo un anno da questo contratto. Tant'è che il direttore generale della Banca d'Italia ha detto: un giovane al primo contratto ha il 55% di probabilità di vedersi offrire un lavoro precario. A noi sembra che il problema non sia tanto il primo lavoro che ti viene offerto, il fatto che il precariato diventa stabile su questo. Ma allora andiamo con ordine. Ripeto, non è il leader della CGIL o della FIOM a dirlo, è il direttore generale della Banca d'Italia, che ha parlato, forse anche rivolto, oltre che alla platea di trentenni, anche rivolto ai suoi figli. I quarantenni e i trentenni stanno pagando le politiche di riequilibrio finanziario. I salari d'ingresso dei giovani sono fermi da 10 anni. Alla precarietà delle condizioni occupazionali si accompagna un progressivo peggioramento di quelle economiche. In termini reali, i salari d'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro sono fermi da oltre un decennio al di sotto dei livelli degli anni Ottanta, senza che nel frattempo non siano migliorati gli itinerari retributivi nel corso della carriera lavorativa. Ai giovani è stato inoltre imposto un prezzo elevato dalle politiche di riequilibrio strutturale della finanza pubblica attuate negli ultimi 20 anni. L'onere più gravoso è quello derivante dalle modifiche introdotte al sistema pensionistico, che ha pesato su coloro che sono nati dopo il 1970. Nell'istruzione, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, in particolare tra le donne, permangono differenze con gli altri paesi europei. Anche se la quota di giovani che hanno completato la scuola secondaria superiore è in linea con la media europea, le rilevazioni internazionali segnalano una minore efficacia nell'apprendimento da parte degli studenti italiani, in particolare quelli del Sud. Sono notevoli i divari nel conseguimento di titoli universitari. La percentuale di laureati nella fascia di età tra i 30 e i 34 anni è del 19% in Italia contro il 32% nella media europea. Lo scarto è solo riconducibile parzialmente a fattori di domanda, ovvero la minore dimensione delle imprese e alla specializzazione settoriale tradizionale, che incidono negativamente sulla propensione ad assumere lavoratori con livelli elevati di istruzione. E questo è il primo dato. Salari di ingresso fermi da 10 anni. Questo, da un punto di vista macroeconomico, vuol dire solo una cosa: che il paese sta recuperando i livelli di produttività, o cercando di recuperare produttività e utili e la competitività, scaricando praticamente quasi tutto su chi entra sul mercato del lavoro. Cioè si comprimono i salari all'ingresso, nel frattempo sulle pensioni l'età pensionabile è sempre difficile allungarla, e poi c'è tutta la fascia dei tutelati, dei lavoratori dipendenti, del pubblico impiego, ma non solo, più 22% i salari in questi anni. Quelli sono intoccabili, inamovibili. Poi ci sono i costi della politica, le consulenze, l'evasione fiscale, ma insomma stiamo scaricando sui figli le difficoltà di fare riforme in questo sistema. È un'operazione ignobile. Mi passa il termine il professor Della Ringa, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, ha lavorato a lungo anche con Marco Biagi. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. È un po' ignobile scaricare, diciamo, i temi dell'incapacità di fare riforme, di toccare le rendite di posizione su chi è appena entrato nel mondo del lavoro, no? Beh, soprattutto in questi ultimi anni di crisi. Dice la banca, 10 anni di salari fermi, a 1000 euro, 800 euro al mese. Prego, Della Ringa. Soprattutto in questi ultimi anni si è accentuato il fenomeno. Da 10 anni il salario dei giovani è fermo. termini reali, quello degli adulti sarà aumentato del 3-4%, non del 22%, forse 22% in termini nominali, non in termini reali. Noi abbiamo perso terreno con i tedeschi, con i francesi, persino con gli spagnoli, perché la produttività è rimasta ferma. Questa è un'altra delle cose che dice la stessa Banca d'Italia. Certamente i giovani hanno perso rispetto ai padri, si dice sempre, meno ai padri più ai giovani, per le pensioni, per i salari, per l'occupazione. In parte è vero, però secondo me non bisogna esagerare. Ora l'obiettivo è giusto, quello di avere, soprattutto per i giovani, posti stabili, sicuri, con alti salari. Il problema è di capire come ottenere questo. Ecco, adesso, non credo sì, che prego. Stia togliendo ai padri per dare figli. No, diciamo che questo non vogliamo questo, però è anche vero che non si può, diciamo, usare tutta la flessibilità solo su una categoria anagrafica. No? O ci mettiamo tutti in ballo, in gioco, oppure, voglio dire, quello che sia stato fatto è scaricare i neo ingressi. Le faccio ascoltare un altro passaggio del direttore generale della Banca d'Italia, in cui ha dato un dato che a me, quando l'ho ascoltato, ha fatto sobbalzare sulla sedia, e cioè i cosiddetti bamboccioni, che in realtà è un termine brutto, fu a mio avviso una gaffa di Padoa-Schioppa allora. C'è chi resta a casa con i genitori. Io negli anni Ottanta ricordavo che, insomma, eravamo tutti convinti che anche noi saremmo diventati europei e che lentamente sarebbero stati sempre più i giovani che, come nel resto d'Europa, nei paesi occidentali, sarebbero usciti di casa a 18, 22, 23, 24 anni, appunto sulla scia di quanto avveniva in Europa. Siamo andati indietro a passo di gambero, a corsa di gambero, dal 18%, anzi 16%, che all'inizio degli anni Ottanta era il numero di giovani che abitava a 30 anni ancora con i genitori, siamo passati al 40%. Non se ne vanno più perché non se ne possono andare, Saccomanni. Le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la crescente instabilità delle condizioni di impiego nella fase iniziale della carriera, il peggioramento relativo delle retribuzioni e il prolungamento dell'attività formativa hanno grandemente accresciuto la dipendenza dei giovani dalle famiglie di origine. Nel 2009 quasi il 40% dei trentenni convivevano con i genitori, erano il 16% agli inizi degli anni Ottanta. Le difficoltà del raggiungimento della piena indipendenza economica perpetuano l'ineguaglianza delle condizioni iniziali, rafforzano la mobilità sociale che caratterizza il nostro Paese, frenano le aspirazioni delle nuove generazioni e ne riducono il contributo allo sviluppo. Allora, professor Della Ringa, poi arriveremo anche alla proposta di Tremonti, ma mi dica una cosa: secondo lei questa percentuale così alta, da 16 su 100 a 40 su 100, è tutta dovuta, diciamo, a oggettivamente salari non tanto di ingresso, magari dopo uno o due anni, che restano bassissimi, 800.000 euro, oppure è anche un cambio culturale? E quindi torniamo al tema un po' dei bamboccioni di Padoa-Schioppa. No. Cambio culturale senz'altro no, anzi penso che il cambio culturale, se c'è stato, soprattutto per le ragazze, sia stato alla rovescia. Rimangono in famiglia certamente per le difficoltà che hanno nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, e lì dobbiamo mettere in fila i fattori causali, i problemi. Ecco, secondo me è sbagliato attribuire la stragrande maggioranza della responsabilità alla legislazione sul lavoro. Cioè la legge Biagi, diciamo. Il fatto che ci siano i contratti flessibili, anche se per alcuni contratti eccessivamente flessibili bisognerebbe fare qualche intervento correttivo, ma io mi domando se cambiando le norme poi improvvisamente noi riusciamo a creare salari elevati, posti di lavoro stabili, con prospettive di carriera. Ecco, mi domando se è quella la causa e quindi il rimedio, o se invece il rimedio e la causa stiano nelle altre parole del governatore, cioè una scuola e un'università che forse non preparano per le professioni richieste, che durante il percorso scolastico non ci sia nessuna esperienza di lavoro che possano far approcciare i giovani al mondo del lavoro, che devono avvicinare una volta finiti gli studi, quindi qualcosa che non conoscono e quindi ci impiegano tempo per familiarizzare, e poi mettiamoci anche il sistema produttivo. Noi sappiamo che le piccole imprese sotto i 10 dipendenti, che sono la stragrande maggioranza delle imprese del nostro Paese, non assumono laureati. Bisogna lavorare anche su quel punto lì, naturalmente, no? Un incontro domanda offerta e una preparazione dei giovani più adeguati. Io non credo che la soluzione del tipo d'oggi in poi tutti i contratti del lavoro sono tempo indeterminato possa essere la soluzione, perché è giusto mettere dei vincoli alle imprese, non si possono abolire i vincoli. Un pavimento, un limite al ribasso ci vuole, Ma non è che naturalmente imponendo vincoli alle imprese che possono fare solo posti di lavoro pagati molto bene, molto stabili, con prospettive di carriera, improvvisamente questi posti di lavoro si creano. No, sono d'accordo, però che qualcosa non abbia funzionato nella Biagi, o meglio nel fatto che molte imprese, adesso ne parleremo, soprattutto dei servizi, fanno contratti che restano troppo a lungo. Il problema non è entrare con un tempo determinato, con quello che una volta si chiamava Coco Pro, non è questo il problema è se poi ci resti per 4-5 anni, se resti tra i 1000, 1100, 800 euro per 4-5 anni, questo a mio avviso della Ringa è il problema. Magari ci fosse la flessibilità d'ingresso, però poi un'azienda deve anche decidersi. Ne parliamo dopo il traffico. C'erano varie proposte nel passato, c'era anche quella di irrigidire via via, cioè entri con la massima flessibilità e poi più un'impresa, una società, un'azienda ti tiene, più viene irrigidito il tuo contratto, cioè da collaboratore diventi tempo determinato e poi tempo indeterminato, nell'idea che se uno ti tiene non un anno ma 4-5 anni ha bisogno di te e allora ti facessi un contratto, diciamo, che dimostra quanto c'è fiducia reciproca. Dopo il traffico la risposta. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. A chi sta scrivendo al 349-238-6666, non stiamo parlando solo o tanto della disoccupazione giovanile, che comunque è al 28% tra i 15 e i 24 anni, che vuol dire tre volte di più, anzi un po' di più, tre volte e mezzo di più della media italiana, che in alcune aree del mezzogiorno tocca il 40-45%. Ed è chiaro, lo dico a chi scrive, che purtroppo la crisi del 2009 si è scaricata come perdita di posti di lavoro soprattutto sui giovani, su 530.000 posti di lavoro persi, alla faccia della crisi che ci ha toccato meno degli altri, persi tra il 2009 e il 2010 ben 480.000 erano di persone tra i 18 e i 29 anni, per cui più dell'80% sono stati persi in quella fascia. Stiamo parlando di nuovi contratti, la proposta che è arrivata dal ministro Tremonti, che vorrei che Carlo Della Ringa commentasse, diamo più forza al contratto aziendale, ma voi imprese, aziende, società, usate meno i contratti a tempo determinato. Credo che sarebbe straordinario se fosse avviato un ragionamento sul lavoro, se fosse ragionato un qualche tipo di intervento aziendale, di struttura contrattuale la più aziendale possibile. E se in cambio fossero ridotte quelle che io trovo eccessive forme di abuso del tempo indeterminato. Perché oggettivamente un conto è la flessibilità, un conto è l'abuso delle forme del indeterminato. Io credo che il nostro sistema produttivo sarebbe più moderno se fosse più aziendale nella contrattazione e per compensazione sociale fosse meno arbitrario nella sequenza, a volte non propriamente corrispondente allo spirito della legge, nella sequenza dell'indeterminato, se ci fosse un limite all'uso di quegli strumenti contrattuali. È un tempo che ha una cifra alta di incertezza e di instabilità ed è vostro dovere, vostro potere, ridurre la cifra dell'incertezza e della instabilità. Tentare di volgere l'incertezza in certezza, la stabilità in stabilità. Vabbè, al di là del Tremonti filosofo di quest'ultima parte, c'era un lapsus, Tremonti diceva indeterminato ma voleva dire determinato. Il messaggio, professor Della Ringa, è arrivato chiaro. Va bene, diamo più spazio ai contratti aziendali della rispetto a quelli nazionali, però voi abusate di meno dei contratti a tempo determinato. Che ne pensa? Ma dunque, rivolto agli industriali, forse era la platea meno indicata, perché l'industria utilizza un 4-5% di manodopera a tempo determinato. Il più delle volte l'uso e l'abuso soprattutto di questi contratti è nel terziario. Infatti dobbiamo fare una distinzione, non dobbiamo fare tutto in erba un fascio. Il tempo determinato, l'apprendistato, il lavoro in somministrazione delle agenzie, questo dà abbastanza garanzie sia al singolo lavoratore, dà anche qualche probabilità di passare un lavoro stabile in tempi ragionevoli. E quando ci sono le palle false partite IVA, ci sono degli stagi che continuano per semestri e semestri a 300 Bravo. Euro al mese, non 1000 euro. E lì allora dei vincoli alle imprese vanno messi, ma soprattutto fanno fatte rispettare le leggi, che l'Italia è un paese in cui quando c'è un problema si fa una nuova legge e si lamenta, invece il motivo forse è vero, è che le leggi che ci sono non vengono fatte rispettare. Quindi non è un problema. Cioè, la società che dice: no, guarda, non ti assumo neanche a tempo determinato, ti faccio la prestazione d'IVA così risulti consulente, ma di fatto fai un lavoro da dipendente totale. Legale, cioè, non serve una nuova legge, dice lei, basterebbe andare con gli ispettori. Infatti, noi siamo in genere molto propensi sul piano legislativo, siamo molto attivi. No, ma sul piano amministrativo e della giustizia talvolta siamo. Mi dica una cosa in conclusione, però mi sembra che lei insomma approvi anche la linea di Tremonti che dice. No, ma io la linea di Tremonti c'ha ragione, infatti volevo arrivare a un punto. Noi abbiamo già un contratto che, come diceva lei prima, ha garanzie graduali nel tempo. Ed è l'apprendistato, non c'è mica bisogno di inventarne un altro, anche le proposte che ci sono in giro sono simili a quella dell'apprendistato. E bisogna far sì che questo apprendistato diventi, diciamo così, conveniente per le imprese, che abbia dentro un minimo di preparazione, perché anche la formazione ha il suo valore, e che le imprese lo utilizzino di più. Ecco, noi ce l'abbiamo già, ecco, bisogna creare le condizioni perché venga utilizzato di più. Talvolta le imprese preferiscono appunto fare un lavoro, un contratto d'ingresso che non c'ha la formazione dentro, o eludere le leggi. E da questo punto di vista l'invito di Tremonti va bene, però farei una distinzione, cioè ci sono dei contratti temporanei che tuttora offrono garanzie, il tempo determinato che ha vincoli, più di 3 anni non si può fare, non si può ripetere, i contratti collettivi nazionali pongono un limite quantitativo, più di un tot per cento, 7-8% non ci può essere, quindi già dei vincoli ci sono. Poi c'è l'apprendistato, il lavoro diciamo così in somministrazione, non è che possiamo abolire le agenzie. No, ho capito, lei dice... Esistono in tutto il mondo e ci mettiamo ad abolirle. No, evidentemente. Io dico, andiamo anche a mandare gli ispettori del lavoro però a vedere le finte partite IVA. Arrivano messaggi in questo momento della ringa di chi scrive: finta partita IVA per 8 anni, poi mi hanno dato un calcio di dietro e licenziato. O chi dice: 37 anni, lavoro da 16, educatore, poi coordinatore, progettista, poi consulente della pubblica amministrazione, funzionario della pubblica amministrazione, ancora precario a 1200 euro al mese con una laurea a 110 lode. Cioè, se sono veri, non si va da nessuna parte in questo modo. In una battuta, perché sono fuori tempo massimo, va modificata la Biagi o va applicata la Biagi? Va applicata soprattutto per quanto riguarda l'apprendistato, e per certi contratti forse va modificata, quel contratto intermittente che si pensava che potesse svolgere una funzione fondamentale probabilmente viene usato e abusato, soprattutto nei servizi. Invece l'apprendistato va regolamentato bene, sindacati, Stato, Regioni si devono mettere d'accordo nel farlo funzionare, vanno dati incentivi alle imprese, perché quello è il vero contratto a garanzie crescenti che porta a un lavoro stabile. Grazie a Carlo Della Ringa, che ha lavorato la legge assieme a Marco Biagi, quindi insomma la missione che alcune cose possano essere modificate mi sembra quanto mai importante. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.